Bacchiglio. Attenzione, vi chiamo il venditore, buongiorno, cambio. Perché è in Italia, cambio? Ha chiuso Maria adesso. Ha chiuso, giovani avanti? Sta strappando Maria. Ho messo il grande, ma prego, a che ho messo? Basta, sta strappando Maria. Andiamo, da chi? Attenzione, c'è nessuno. Cioè la preparazione, vedi, sta comprando, capito, che vuoi? Ora attenzione, caro, vi dico la notte. È importante se si tratta. Attenzione, dai, già sono qua. Allora, ti sono lì. Mari, si è morto quel re, mi stupendo. Non so se è stato un'altra cosa. Hola. QRZ. Avanti QRZ, buongiorno. QRZ, canale 23. Avanti canale 23. Sì, stazione Sirio Sud Italia, avanti K. Ok, Sirio, buongiorno, c'è per il secondo, sono con la familiare. Ho fatto domani nella città di Sassa, avanti. Ascolto bene, riprova a venire avanti K. Ok, guarda in questo passaggio, collega Sirio, sta con il Sassari. Sì, perfetto Sassari, il segnale c'è, ma ci sono molti segnali in DX che arrivano, ok? Stazione Sirio, QTH Polignano a Mare, in provincia di Bari, QSL. QSL, Sirio, qui operatore Marino, la città di Sassari, in compagnia di un amico Bacchisio, è stato stato l'antenna, ecco, entro. Un attimo, lo chiamo, avanti Bacchisio. Bacchisio, ancora, con la Giovania. Sirio, ci siamo stati arrivati. Uniform Sierra Bravo, se ti va, sei d'accordo, Uniform Sierra Bravo, K. Ascolta Sirio, ci siamo stati arrivati, ti chiedo scusa, avanti, cambio. Bravo. Sirio. Importante? Attenzione, canale 23, Sud Italia, chiama e ascolta, K. Gigante. Gigante. Gigante. Avanti Bacchisio, avanti, attenzione gigante, attenzione gigante, gigante, cambio. Italia chiama e ascolta K. Molto basso, sì, gigante, molto basso. Ok, Roger, attenzione Barcellona, Sud Italia, provincia di Bari, attenzione gigante, cambio. Distanza con il 4, basso, molto basso da qui. Basso come segnale, come radio anche. È più segnale, forte che tanto. Il segnale si è abbassato, ripeto, qui stazione Sirio, India, Oscar, Cudiaco, Polignano a Mare, in provincia di Bari, QSL. Hai copiato, va gigante. Hola, attenzione, Barcellona, Spagna, mi ascolti, K. Hai cambiato, Bacchisio? Attenzione, Barcellona, Spagna. Change of uniform Sierra Bravo, uniform Sierra Bravo, ok? E adesso è aumentato, Santiago di 9 adesso, Bacchisio. Sono che ci stanno modulando, stanno modulando le segnali più diffusi, capito? Comunque Santiago è aumentato, Santiago 9 sta arrivando. Sono la radio, c'è la leggerezza e basta, vabbè, la è la tua voce, ma ci sono i colleghi molto più forti, capito, per quello non... Esatto, tanto non è la radio pulita, solo che la leggerezza e basta, però la radio è pulita, capito. C'è quello di fuori, sta chiamando, no? E uno in banda laterale, arriva quasi 9:10 qua. è un casotto. Aspetta, ma che c'è qui, che c'è Silvio da Bari. Attenzione, Silvio, c'è così la Sardegna, cambio. Attenzione, canale 23, QRZ. Attento, Silvio, c'è così la Sardegna, cambio. Ok, ciao Silvio, buongiorno, sono sempre Marino da Sassari, il compagno di battesimo sempre da Sassari, ok? Avanti Silvio, ancora cambia. Attenzione all'amico in giallo, ti ascolto, ma arrivano altri segnali, hai la possibilità di cambiare in banda laterale? Sì sì, vai RSB o USB, come vuoi. Chiedevo, è possibile cambiare in banda laterale, Uniform Sierra Bravo? Ok, vai, vai. Ok, Uniform Sierra Bravo. Attenzione Silvio, se lo tutti, sentiamo Silvio, Silvio, torna. Ehi, ti voglio 100%, sono trovo 95, voglio 5%. Vediamo se questo è un amico di Sassari. Attenzione Silvio, un attimo Silvio, Silvio è quello di Sassari. Ma chi gli avviamo in USB? Sai cosa sono USB? Allora, la macchinina non deve segnare la colonna, USB può vivere la vivo, vai. Ma che signo, dove mi sto passando, se mi stai passando, cambio? Perché ho il signo, signo, ascolti la Sardegna, buongiorno. Buongiorno, sempre io, sempre il marino, si sta spettando. Si sta ottenendo la situazione, oggi molto, molto rumore. Avanti, ciao, signo. Perché è la Cristina, io sto fuori il marino, ma il camminio, non voglio stare a mio tipo, la ti cazzo, che ti fa questo, la ti cazzo. Fatto finito, poi mi sono soltanto collegamento Bari, collega Silvio, ok, avanti, troppo casotto c'è troppo casotto. Troppo basso la radio, ma chi non ha ascoltato, cos'è che hai detto, scusa, vabbè, è la tua voce, è il tuo basso, Battiglio, avanti. Ok, ah, comunque il segnale 9 va benissimo. La radio è leggermente bassina, ma si è aumentato un pochino, ma è il tono di voce tua, non fa nulla, dai. Ok, dai. Ok, Battiglio, adesso chiudo che mi sta chiamando mio nipote. Ci sentiamo più tardi, se è il caso, dai. Ciao, Battiglio, chi ti dà il portale, la sua carica, la macchina.

FM. Sì, già ascoltato, l'ho appena acceso. Ero di Vulcane. Stava ascoltato che eravate in banda. Oh, signor Marina, ancora sì. Signor Bacci, buongiorno. E poi che siete accorto basso. Ah, Gian Marino. Anch'io lo sento basso, ma in campagna è. In campagna è. Ah, già ti tiro fuori comunque. E a me mi sente Bacchigio, tu? Penso di sì. Penso al signor Bacchigio. Penso al signor Bacchigio. E metti l'altro, metti, che forse sarà più forte. Vabbè, va. Ciao, to, allora, buon pranzo a tutti e due. Saluto anche a Bacchigio, dai, chiudo. Ciao, to. Ok, ciao Gian Marino, ci sentiamo. Ehi, la signor Bacchia, adesso c'è più forte. E con questo c'è più forte e più chiara. Ehi, io già anda, la buia. Arrivi bene anche, no, poi mi stai arrivando con quello. Ma già arrivi bene. Oh, ha chiuso Batti, ha chiuso. Ci dà tanti saluti. Ci sono questi di cose, di fuori che ti coprono. Infatti. Se sono molto forti sono. Cosa vuoi fare? Sono più forti di noi. La propagazione oggi è forte. Purtroppo è così. Loro sono fortissimi più di noi. Tanto c'è che non ci accorgiamo, dove c'è l'altro. Secondo come sono, si coprono, Aspetta, si stanno coprendo, questi in banda laterale sono ancora più forti. Sì, l'FM ce l'hai lì. Se c'è l'FM. Ma va a passare a vedere. Attenzione Battiglio. Lo so, purtroppo. Cosa vuoi fare? Esagerato. Oioioi, aspetta, andiamo, ve andiamo. E cosa vuoi fare? Ciao, gusti, ciao. se n'è andato, se n'è. Purtroppo è così, eh. Sono più forti loro, signor Bacchi. Certo, lo vuoi dei forti. Ed è così, infatti. Purtroppo è così. Andiamo, andiamo. Purtroppo c'è niente da fare. Vabbè, cosa ti ha detto quello là? E sicuramente domani, perché la domenica mi pare che non lavorano. Eh sì, ed è così, infatti. È così che no, purtroppo, quando soffrono, soffrono. Purtroppo, signor Bacchi, la vita loro è quando arrivi a cercare di buruaedi. Ok, signor Bacchi, ce la sentiamo stasera. Ciao, signor Bacchi, buon pranzo. Ciao. Ciao. Ehi, Amari, che stava parlando Bacchi, io stava parlando. Ehi, buongiorno anche a te, signor Marino. Buon pranzo, signore. E allora, Bacchi, chi da chi? C'è la caccia vuota. Ok, ciao Bacchi. Comprando anche a te in casa, ciao anche a te, non ti ha sentito, ciao ciao. Sì, ok, ciao Mari. Ci sentiamo. Come la radio, dottore? Va bene la radio, sì? Sì, io ti ascolto bene, ti ascolto. Abbastanza bene, Radio 9. Radio 9, Santiago 9, Radio 5, perfetto. Ok, va. Ok, attacco l'attore, ciao, buon pranzo, ciao. Ok, ciao Mari. Avanti, QRZ. Riprova a venire avanti, avete trasmesso in due. Buona domenica, K. Città Prato, buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio. Stazione Sirio, operatore Nico QTH Polignano Amare in provincia di Bari, QSL. K, Roger, a parte la propagazione mi direi il tuo nome e il tuo QR a nome. Scritto Nico QTH Polignano Amare in provincia di Bari. Condizioni di trasmissione CRT 9009, il microfono è un antartice, l'antenna è una in massa, modello a mezz'onda, qualche parte in antenna, niente più di tanto, ok K. Oh. QSL Christian da Prato, QSL al 100%, il segnale è dell'ordine variabile con QSB 5557 QSL. K Roger Christian 73, a presto, avanti Imola K. Imola, attenzione. K Roger Gabriele Falco 1 in Imola. Buon pomeriggio, buona domenica. Qui stazione Sirio, operatore Nico, il QTH Polignano a Mare in provincia di Bari. QSL. Ciao 73 Gabriele, a presto, si arrivi fortissimo Condizioni CRT 9009V4, l'antenna Nage Master, modello piccolo, la mezz'onda, microfono una stagione 75, Gabriele, a presto, 73. Ciao, grazie, questo l'ho elaborato un po'. Ciao 73. Attenzione canale 23, CQ canale 23, Sud Italia, chiama e passa l'ascolto, K. Hola DX, CQ DX, allo DX, Sud Italia, chiama e passa l'ascolto, K. Avanti Rumenia, K. Ok Roger, mi ripeterai il suo nome, 58 è il tuo segnale in Sud Italia, ok? Il mio nome è Nico, my name is Nico, Nancy India, Charlie Oscar, Roger. Ok, Roger, Roger Cosmin, many thanks for the contact, 73 and good DX, ciao. Ciao. Hola, CQ Delta X-Ray, CQ Delta X-Ray, Sud Italia, chiama e ascolta, K. Sud Italia, chiama e ascolta, K. Hola, CQ DX, CQ DX. Sud Italy Station, calling DX. CQ DX, CQ DX, only DX. Sud Italy Station, calling DX, over. Hello DX,